Italia in controluce. Italia in controluce, ovvero il racconto della cronaca italiana attraverso le piccole e le grandi storie del nostro paese. Buongiorno da Daniele Biacchesi. Da oggi fino all'11 settembre di scena la mostra cinematografica di Venezia. Con la nostra inviata Marta Cagnola, che avete già sentito nel corso dei nostri giornali radio, parliamo di un documentario scritto e diretto da Luciano Ligabue. Possono le canzoni raccontare la società? Può un cantante, attraverso la sua carriera e il suo pubblico, raccontare un paese che cambia? La voglio dedicare a tutti quelli che hanno capito che questo paese non è di chi lo governa, ma è di chi lo abita. È un documentario atipico, Niente paura, di Pier Giorgio Gai. Siamo un paese molto lontano dal paese che abbiamo sognato, ma smettere di sognare quel paese lì non serve a nessuno. Racconta Luciano Ligabue, e Luciano Ligabue, colonna sonora e narratore, racconta l'Italia attraverso le storie di uomini e donne comuni o di persone conosciute. Io credo che sia un diritto obbligatorio, bisognerebbe anche costringere la gente a, per ritrasformarla in popolo, dal lavoro che ci hanno fatto per farla diventare pubblico, sulla necessità di partecipare. Niente paura. Paolo Rossi, Margherita Hack, Umberto Veronesi raccontano un paese senza memoria né ideali, cercando di ritrovare come riferimento la Costituzione, come fa ad esempio Stefano Rodotà. L'articolo 36 della Costituzione, e lo dico con orgoglio di cittadino, chi ha scritto quegli articoli aveva una cultura e una sensibilità che abbiamo completamente perduto. La storia italiana diventa anche la storia intima degli italiani e tutto riaffiora nei ricordi personali come quelli di Sabina Rossa. Il giorno della strage di Piazza Fontana. Ricordo che ebbi proprio un sussulto di gioia quando ci fu la notizia che il giorno dopo le scuole sarebbero state chiuse. Mio padre mi diede proprio un sonoro ceffone. Una vita da mediano, da uno che si brucia presto. Ricordi di ognuno di noi che formano una vera cultura popolare, come quella delle canzoni di Ligabue, come quella che dipinge Carlo Verdone. Credo che gli accordi di Jimi Hendrix resteranno estrema avanguardia per altri 50 anni. Credo che sul comodino di ogni italiano ci dovrebbe essere le lettere a Lucilio di Lucio Annio Seneca, un grande filosofo che ci dà un grande indirizzo etico e morale. Credo che più leggiamo i libri di Terzani e più riusciamo a capire il senso della vita, perché è stato un grande uomo, l'ultimo grande mistico secondo me. Credo che i gol di Drogba siano fantastici per potenza, mi piace. Niente paura uscirà al cinema il 17 settembre e sarà fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Italia in controluce. La seconda traccia porta al mondo dei nazi skin e dei gruppi della nuova destra extraparlamentare. Daniela Binello. Skinheads, alla lettera testerapate, ovvero sballati, balordi, balordi, balordi, balordi. Ma perché è offensivo secondo lei dire negro o ebreo? Non so, offensivo, come dire, non so. Napoletano, non so. Per noi il fascismo significa onore e fedeltà. Noi non rinneghiamo il nostro passato. Nella nostra sezione abbiamo la foto di Benito Mussolini e non lo rinneghiamo assolutamente. Gli skinheads nascono in Inghilterra e sono un prodotto delle sottoculture, diciamo, di origine proletaria, quindi c'è un modo di vestirsi che ricorda un po' certi fumetti inglesi, certe immagini del proletariato o comunque della classe lavoratrice inglese, jeans, bretelle, cranio coi capelli corti, insomma, un modo di vestirsi che ricorda alla classe lavoratrice inglese, e non nasce come movimento di destra, nasce come movimento fondamentalmente di protesta, una protesta non molto articolata, piuttosto più a base di birra che di ideologia. Claudio Lazzaro, nel suo documentario Nazi Rock lei ci aveva mostrato come questi elementi della subcultura skin si diffondano oggi a distanza di 30 anni dalle origini mediante un tantà musicale che mette in rete i gruppi di attivisti neonazisti o estremisti di sinistra con i loro simpatizzanti. Perché spesso i gruppi, direi quasi sempre, ma diciamo spesso, i gruppi che fanno questo tipo di musica in Italia sono anche gruppi di attivisti politici, cioè usano la musica per fare proseliti, per comunicare, per socializzare con ragazzi che poi vengono attirati dentro l'organizzazione di estrema destra, no? Come è avvenuto col calcio, la curva dei tifosi allo stadio inizialmente non era solo di destra, adesso è quasi esclusivamente di destra, cioè anche il mondo della tifoseria calcistica diventa un terreno su cui lavorare, fare politica, fare proselitismo. Tante volte ci accusano di essere violenti, ma violenti contro chi? Contro chi ci attacca tutti i giorni, contro chi ci sputa addosso tutti i giorni, contro chi ci vorrebbe tutti morti, impiccati a Piazzale Loreto. Sì, siamo violenti, contro di loro siamo violenti, se vogliamo sopravvivere dobbiamo essere violenti nella vita, nelle strade, contro della feccia che non ha dignità, che non ha onore. La nostra è legittima offesa. Armando Capannolo e Sara Giorgi, coordinati dal professor Selvaggio della Libera Università Pio V di Roma, hanno sviluppato una ricerca sugli skinheads. Armando, lei ha soprattutto individuato la visibilità delle reti skin online? È molto facile innanzitutto visualizzarle su internet, dove sono molto presenti. Comunque, grosso modo, quelle principali sono a destra il White Power Rock, WPR, appunto molto presente in internet, che comprende tutta una serie di organizzazioni politiche di estrema destra, quindi partiti, organizzazioni a livello della società, ma anche band musicali, etichette discografiche, negozi locali e così via, e che appunto mette in contatto tramite la musica gruppi di nazi skin o anche semplicemente di non nazisti, non necessariamente appartenenti alla subcultura skinhead, in tutto il mondo. Poi esiste un'altra rete, che è la Sharp, che raccorda invece gli skin apolitici, tra virgolette, quindi gli originals, ma ha perso notevolmente proseliti negli ultimi anni, quindi assolutamente non ha nella diffusione nella rilevanza del WPR, e lo stesso dicasi per la Rush, che invece raggruppa gli skin comunisti anarchici. Gli skin di sinistra sono pochi, però sono appunto abbastanza visibili in alcune manifestazioni della sinistra, dove non agiscono assolutamente in maniera violenta, semplicemente portano degli striscioni accodandosi a quelli che sono poi i temi della sinistra. Per quanto riguarda l'estrema destra, penso che è inutile che, nel senso, c'è stata Verona, c'è il Veneto Fronte Skinhead, esistono associazioni abbastanza note, sono esistiti anche gruppi musicali in Italia nazi skin. Ovviamente non ci si concentra più soltanto su un solo gruppo, e si sa, in realtà ci si concentra oggi soprattutto sui romeni, ma domani chissà. Sara, nella sua ricerca lei ha individuato nel peso della precarietà, la rabbia, l'emarginazione che poi genera anche la violenza di alcuni skin? È difficile entrare in un contesto elevativo, poter crescere e affermarsi, è difficile proprio l'accesso in sé, quindi si è bloccati sul nascere, e questa è la precarietà che si avverte oggi, e questo è il senso di impotenza, di mancanza di affermazione che si avverte oggi essenzialmente. Dopo aver aggredito un profugo polacco per strada, tre skinheads lo hanno trascinato in uno scantinato, e qui, dopo avergli praticato un'iniezione, con forbici e coltelli hanno tentato di asportargli la lingua. La tensione è alta, soprattutto a Milano, dove ieri un gruppo di teste rasate ha ridotto in fin di vita uno spagnolo. Lo spagnolo ha coltellato e colpito con catene poco dopo aver lasciato il centro sociale Leon Cavallo, è stato oggi interrogato dalla Digos all'ospedale Fate Bene Fratelli. Italia in controluce. L'estate sta finendo, ma ci si sposta ancora e c'è chi ha scelto un vecchio modo di raggiungere paese e città. L'autostop attraverso internet. Il racconto di Alessio Maurizi. Statale 17, il sole cade a picco, 3 giorni sulla strada. Sono lontani i tempi in cui l'asfalto bruciava sotto i piedi e si alzava il dito in cerca di un passaggio, zaino in spalla. Oggi l'autostop si fa su internet. Sembra una battuta oppure l'ennesima fuga nel virtuale, invece no, è una cosa vera che funziona. Attraverso passaggio.it si possono inserire delle offerte di passaggio oppure cercare un passaggio per mete nazionali, quindi per tutta l'Italia, dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia, o per mete internazionali. A parlare è Daniela Mililli, per conto di un progetto da poco sbarcato in Italia che si chiama Passaggio.it, un servizio internet che mette in contatto chi la macchina ce l'ha e decide di condividerla abbassando le spese e chi invece cerca un passaggio per una certa destinazione. Le mete più gettonate sono la Milano-Roma, Napoli-Roma, Bologna anche Roma e Torino-Milano. Chi utilizza il nostro servizio sono studenti per lo più, ma anche molti lavoratori pendolari. Poi ci sono anche gli avventurieri, ovvero coloro che utilizzano il servizio per farsi un weekend girando l'Italia oppure addirittura per andare all'estero, per fare quindi per una vacanza low cost. Il fenomeno in termini tecnici si chiama carpooling. Si cerca di riempire una vettura per risparmiare sulle spese del viaggio, spese che sembrano competitive sia con quelle del treno sia con chi viaggia in solitaria. Allora, noi diciamo che consigliamo un prezzo che si aggira fra le 5 e le 8 euro ogni 100 chilometri. Però vi è anche l'opportunità di calcolare attraverso il nostro calcolatore di prezzo il quanto, quale sarebbe il prezzo diciamo equo che il conducente può chiedere ai passeggeri, o altrimenti appunto a discrezione del conducente può decidere lui quale somma insomma chiedere. I dati, per quanto possibile monitorarli, parlano chiaro. Il fenomeno è in crescita, dal 30 al 100% di visitatori in più nei siti che offrono il servizio. E dopo la crisi aerea causata dal vulcano islandese, l'impennata è stata anche dell'800%. Ma chi sono i moderni Easy Riders e cosa li spinge a fare l'autostop sul web, oltre naturalmente al risparmio? Daniela Milillo di Passaggio.it li definisce così. Direi che c'è prevalentemente un maggior senso di organizzazione, anche perché appunto vediamo che le persone solitamente cercano di organizzare il tutto una settimana prima. Però secondo me c'è sempre un po' uno spirito avventuriero, soprattutto per quanto riguarda richieste di passaggio, offerte di passaggio che vanno dall'Italia all'estero, perché appunto c'è un po' secondo me questa voglia di mettersi in macchina e di scoprire ecco un paese all'estero dal finestrino della macchina, con persone che addirittura a volte magari possono essere appunto straniere. A volte appunto i nostri utenti scrivono ok, io non occorre che mi piegate qualcosa, l'importante per me è farmi quattro chiacchiere, che diciamo può andare anche bene. Ci sono persone che sono per motivi di sì, di lavoro o altro, devono viaggiare, devono fare tanti chilometri ogni giorno, e quindi appunto proprio sono alla ricerca di qualcuno che renda questi chilometri meno grigi, appunto per fare quattro chiacchiere. Born to be wild. Costi bassi, garanzia delle destinazioni, l'autostop prenotato su internet è forse meno avventuroso, sembra però più sicuro, visto che chi lo gestisce pubblica le recensioni degli utenti e se c'è qualche cosa che non va salta fuori. E allora non resta che augurare buon viaggio. La seconda edizione di Italia in Controluce termina qui. L'archivio di tutte le puntate lo trovate sul nostro sito, naturalmente radio24.it, potete scaricarli anche in podcast. Per raggiungerci la mail controluce@radio24.it, il nostro gruppo su Facebook Radio 24 Italia in Controluce, dove potete mettere e scrivere i vostri desideri, i vostri temi di puntate. Torniamo domani alle 6:30, naturalmente su Radio 24.